Diverse settimane dopo, un giorno in cui gli asfodeli erano in fiore lungo il Bund e i vapori del cielo e della terra sembravano tutt'uno, Giada Lucente e Spirito Risoluto camminavano svelti verso la sede della casa editrice, facendosi strada fra la folla del pomeriggio che faceva compere sulla Fuchao Road. Vicino all'angolo di Pearl Street furono costretti a fermarsi. «È un incidente?» chiese lei spazientita guardandolo. Lui scosse la testa sorridendo. Soltanto un vecchio venditore ambulante. Soltanto un vecchio venditore ambulante? Lui annuì, poi scoppiò a ridere fragorosamente. Pur non sapendo il perché, si ritrovò a ridere anche lei. Alla fine, quando si furono calmati, lei domandò: che cosa c'era di tanto buffo? Compreresti un tonico per i capelli da un venditore calvo? Ridendo di nuovo si accorse all'improvviso di aver atteso abbastanza. Vieni da questa parte, disse, imboccando velocemente un vicolo buio e facendogli segno di seguirla. Come sempre lui la contentò senza discutere. Lei lo portò alla minuscola bottega del tè delle ciglia dell'usignolo, dove era sicura, essendovi passata diverse volte, di non incontrare nessuno di loro conoscenza. I vecchi che frequentavano la bottega ogni giorno, fumando o giocando a Mahjong, alzarono gli occhi su di loro, corrucciati per l'intrusione, mentre il corpulento proprietario arrivava di corsa dalla stanza sul retro e ripuliva il ripiano di un tavolino vuoto. «Prego, prego, accomodatevi!» Si inchinò, sorridendo, mentre i due giovani sedevano. «Giovane padrone, posso servirvi del tè velo di nuvola?» È la qualità più fine, raccolta da agili scimmie sulle cime più alte del Jiangxi, messo in infusione in rugiada proveniente dal cuore dei 10.000 loti. Andrà bene quello più a buon mercato, rispose lei prima che Spirito Risoluto potesse parlare. Il proprietario sospirò e, scuotendo la testa, scomparve in cucina mentre i vecchi annuivano con aria d'intesa, finché quello vestito di grigio urlò «Pung!» e attirò l'attenzione degli altri. «Perché mi hai portato qui, giovane padrona?» «Giovane sorella», lo corresse lei per l'ennesima volta, «non ricordi?» Sorridendo, lui si batté una mano sulla fronte, dicendo che la sua testa era vuota come un tamburo. «Non parlare di te a quel modo!» Lui si strinse nelle spalle. «Comunque non hai risposto!» Il proprietario, di ritorno, mise davanti a ciascuno una tazza di tè ancora a metà infusione. Macchioline marroni di foglioline galleggiavano sulla superficie dell'acqua tiepida. Spirito Risoluto non sembrò prendersela. Allargando i gomiti sul tavolo, sbirciò nella tazza e soffiò verso il fondo i residui scuri. Giada Lucente spinse di lato i suoi, domandandosi per la prima volta come avrebbe reagito il giovane all'idea che lei stava maturando da tante settimane. Il piano era logico, non le era mai passato per la mente che lui potesse obiettare. Fratello maggiore, improvvisamente si ritrovò con la gola secca e sorseggiò un po' di tè. Fratello maggiore, ricominciò, anche se ormai lavoriamo insieme da oltre un anno, non abbiamo mai avuto un colloquio personale. Eppure ho l'impressione che ci conosciamo bene, vero? Lui sorrise di nuovo. Sì, siamo sempre d'accordo. E non siamo forse ottimi amici? Lui annuì, arrossendo. Giada Lucente aspettò che parlasse, ma lui evitò il suo sguardo, fissando invece lo scaffale delle gabbie degli uccelli, dove i vecchi avevano messo le loro bestiole dopo averle portate fuori a prendere aria. Niente da fare, doveva affrontarlo direttamente. Fratello? Sì? Che cosa pensi veramente di me? Lui arrossì di nuovo e abbassò gli occhi, sorseggiando il tè. Ti prego, dimmelo. La gente come me non è brava con le parole, perché me lo chiedi? Devo saperlo. Lui, imbarazzato, fece per bere di nuovo. Lei gli mise una mano sopra la tazza. Ti prego, cosa pensi veramente di me? Penso che... Si schiarì la voce. Sì? Penso, giovane sorella, che darei la vita per te. Lei sospirò. Aveva capito bene, l'avrebbe sposata e una volta sposata lei sarebbe stata al sicuro, non avrebbe più potuto tornare indietro. Fratello maggiore, non voglio che tu muoia per me. Volevo dire, tracciò dei segni sul tavolo con l'unghia del pollice, perché mi chiedi queste cose? Mi fai arrossire come il posteriore di un babbuino. Ma hai detto che siamo d'accordo su tutto? Sugli scioperi e gli stranieri e cose del genere, ma siamo diversi per il resto. Perché? Perché io sono la nipote del Hanlin e tu il figlio di un fittavolo? Lui annuì. Tu leggi in inglese e scrivi caratteri più in fretta di quanto io riesca a pronunciarli. A casa di mio padre le uniche cose che tengano testa per numero ai tuoi libri sono le mosche. I tuoi antenati sono tutti uomini di lettere. Io sono il primo membro della mia famiglia che sappia leggere e scrivere. Lei ebbe una visione dell'altare degli antenati a Xuchao. E la famiglia di lui mal si adattava a quello scenario. Rapidamente la cancellò. Tu non capisci. Il mio posto non è con mia madre, con il mio clan. Il mio posto è nell'attività che facciamo insieme. Non mi interessano i miei antenati e le mie antenate. Mi interessano le cose che stanno a cuore anche a te. La Cina, non il clan. La Cina è la mia famiglia. No. Lui scosse il capo con decisione. No, no, no. Quel che tu dici non è giusto, nemmeno per una ragazza moderna. Improvvisamente si alzò, dando uno scossone al tavolo e rovesciando una tazza, e si frugò nelle tasche. D'ora in poi ci vedremo soltanto alle riunioni. Mise un mucchio di spiccioli sul tavolo. Scusami. Lei raccolse le monetine e gliele restituì. Non voglio andarmene ancora, per piacere. Siediti. Sii paziente, si disse. Sii paziente. E sorseggiò il tè. Era freddo. Fratello mio, questa è una nuova Cina e noi non siamo più bambini. Entrambi abbiamo promesso di sposare soltanto coloro che sceglieremo liberamente, non è vero? Lui guardò i vecchi. Uno di essi si era addirittura messo una mano intorno all'orecchio per sentire meglio. Spirito risoluto, spostò la sedia in modo da girargli la schiena per proteggerla dalla loro indiscrezione. Che ascoltino pure, pensò lei, e ripeté. Non è vero? Sì, ma spirito risoluto, io voglio sposarti. La guardò a bocca aperta. Per un attimo, già da lucente, pensò che fosse in collera. Poi lui disse: Ti stai prendendo gioco di me? Lei si protese verso di lui e gli toccò una mano. Ma no, affatto! È solo che non voglio sposare un forestiero scelto dalla mia famiglia. Voglio sposare un amico le cui idee siano simili alle mie. Si concesse una pausa. Dal momento che tu non me l'avresti chiesto mai, ecco, ho dovuto farlo io. Ora aveva messo entrambe le mani sulla sua. Non vedi che formiamo una coppia ben assortita? Lui scosse la testa. Tua madre non acconsentirebbe mai. E invece lo farebbe se sapesse che altrimenti resterei sempre sola, senza una casa, senza figli, come il giovane prozio. E quello sarebbe il voto che farei. C'era stupore negli occhi di lui. Davvero? Certo. Non devi. Questi sono discorsi pazzi. Pazzi. Di nuovo lei gli chiese: Vuoi essere mio marito? Lui esitò, poi sussurrò stanco: No, sarebbe sbagliato. Lei non insistette oltre. Ci sarebbe voluto del tempo. La stagione della semina. 35. Un segno del cuore. Ho lasciato la mia casa da giovane. Sono tornato da vecchio. Parlando come allora, ma coi capelli radi. E i miei figli, vedendomi, non mi riconoscono. Sorridono e chiedono: Straniero, da dove vieni? Hie Chi Chang, dinastia Tang. Le nuvole incombevano sopra Shanghai. Il respiro di un drago condannato, deciso a vendicarsi. Talento coraggioso se ne stava col pennello sospeso sopra la sua tavola da calligrafo, ignorando la tempesta in arrivo. Anche se i servi si affannavano per tutta la casa a chiudere le finestre. La stanza che ora occupava era un tempo appartenuta all'una di primavera. Per anni era rimasta spoglia, se non per il tavolo alto fino alla vita e una libreria dove erano depositati i suoi inchiostri, pennelli, fogli e acquarelli. Lì era libero di avventurarsi in altri mondi. Lì, come i letterati poeti del passato, usava i tratti da calligrafo nei quali si era esercitato tutta la vita per dipingere immagini ispirate dalla memoria o paesaggi intravisti da sommità di montagne che non avrebbe mai scalato. Così godeva di infinite possibilità, creando equilibrio e coerenza, appagamento. L'ispirazione a dipingere gli era venuta per la prima volta 3 anni addietro, quando era tornato solo alla casa sulla Babbling Well Road. Dopo la cerimonia per il diploma di Giada Lucente e la partenza di luna di primavera per Xuchao. la notte prima. Aveva udito il pianto del bambino, il shh mormorato dalla donna che era andata da lui. Dopo la loro partenza, nella casa deserta, il silenzio era rimbalzato di stanza in stanza, così privo di suoni da innervosirlo. Era rimasto per ore al tavolo, ma non gli era venuta nessuna parola, e la mano che stringeva il pennello era insicura come l'era stata quando era partito da San Francisco. Non ricordava quando aveva disegnato le prime foglie, la pianta di bambù, un bambù che si piegava al vento e così non veniva mai spezzato. L'aveva dipinto febbrilmente, un ramo dopo l'altro. Le passioni terrene rubano la vita, aveva detto il vecchio al pittore Tang, Ching Hao. Gli uomini virtuosi si occupano di musica, calligrafia, pittura e non indulgono a piaceri smodati. Un'ora dopo l'altra, aveva lavorato finché gli era sembrato che il suo pennello volasse, muovendosi come per propria volontà, riproducendo senza esitazione le esili sagome dei bambù. Poi, una sera dopo l'altra, aveva via via arricchito il suo repertorio. Un boschetto, il cielo, la bruma, il chiaro di luna, una figura assopita, finché aveva padroneggiato tutte le forme del manuale dei semi di senape. Per cogliere la loro essenza, talvolta aspettava tutta una sera, richiamando un panorama o una sensazione. Ma una volta che avvicinava il pennello alla carta, il dipinto si dispiegava in una esplosione di energia ritmica. Quando la visione era completata, egli era esausto, ma ristorato allo stesso tempo. Quella sera immaginava una placida pozza d'acqua e carpe, pesci di seta che guizzavano. Immerse il pennello in acqua pura, inumidì la punta nell'inchiostro pallido che aveva preparato e la premette sulla carta, così che l'inchiostro si allargò, delineando lo spazio acqueo. Con lo stesso metodo ripeté l'operazione per ciascun pesce. Poi aggiunse la piccola montagna artificiale, gli sgabelli di porcellana e con tre tratti vigorosi una ragazza con la mano protesa. Quando il ricordo ebbe preso forma, scrutò il dipinto e si sentì soddisfatto. Quella era un'emanazione del suo cuore. Il saggio aveva detto una volta che l'anima di un uomo sapiente è come quella di un bambino. Il bambino, nascosto in lui, sarebbe stato per sempre luna di primavera. In un'altra vita, in un'altra epoca, chi avrebbe potuto separarli? Come la luna e il sole, si sarebbero per sempre mossi all'unisono. La sua mano rimase per un istante sospesa sui codini svolazzanti, sui bordi rossi, poi ripulì i pennelli e li ripose. Come al solito scese da basso e chiese al servo di portargli del tè, poi lo sorseggiò lentamente, caldissimo. Ma il sapore non era più quello di una volta, quando era virtù splendente a prepararlo, anche se le foglie venivano raccolte ed essiccate dalle stesse mani nello stesso anno. Dapprima aveva pensato che fosse per via dell'acqua e sua moglie premurosa gliene aveva imbottigliata un po' da portare a Shanghai. Ma non aveva fatto alcuna differenza. Virtù Splendente aveva avuto un incubo durante la sua ultima visita a casa. L'aveva sentita piangere come se fosse in pena e si era affrettato nella sua camera per confortarla. Dopo un po' lei gli aveva raccontato il suo sogno. Avevo cotto del pane tutta la settimana, marito mio. Tu sei venuto in cucina e mi hai ordinato di ritrasformare le pagnotte in acqua e farina. Io ho provato e provato. Ma quel che era fatto non poteva essere disfatto. Quando ti ho informato del mio insuccesso, tu mi hai mandata via. E io ho camminato, un lì dopo l'altro, con le mie scarpe nuove dai tacchi alti. Lui le era rimasto accanto per il resto della notte, osservandola dormire e domandandosi se lei rimpiangesse quel giorno in cui aveva mandato talento nobile da suo padre. Al pensiero di suo fratello, sospirò. Quando era lontano, talento nobile scriveva lunghe lettere, sfogandosi, raccontandogli quel che l'angustiava, una vita squallida, senza conforto. Eppure, quando il soldato era a Shanghai, seduto davanti a lui in quella stanza, le ore passavano senza che si scambiassero una parola. Forse è il mio atteggiamento, pensò. Il vedermi, in qualche modo, lo irrita. Forse pensa che sono venuto meno alle aspettative del venerabile, alle sue, che sono venuto meno alla nostra causa. E forse è vero. Amavo troppo il passato per sradicare tutto. La sua tazza era vuota. Quando la riempì di nuovo il tè era freddo e chiamò il servo per portarla via. Dopo aver acceso la luce, salì le scale. Forse, pensò, noi uomini di lettere vediamo solo quel che desideriamo, nascondendo il resto dietro una nebbia diffusa, come nei paesaggi che dipingiamo. Solo impressioni, senza particolari. L'uomo sembra un nano, paragonato alla montagna. Chi può indovinare se il suo volto è felice o triste? Cosa indossa? Una scena irreale. Niente battaglie, niente sangue. Vediamo troppo lontano, si disse ad alta voce. E forse non vediamo affatto. Il sonno non voleva saperne di venire. Sempre nelle ore tarde, quando cercava il riposo, i guai della casa editrice lo tormentavano e, man mano che lenti minuti passavano, si preoccupava per il risveglio che sarebbe stato inesorabilmente prematuro. Stretto fra queste due prospettive, giaceva sveglio, completamente lucido e sfinito. Avrebbe preferito farla finita con la sua casa editrice e le sue difficoltà economiche. I suoi amici stavano perdendo interesse e più volte gli avevano lasciato capire che doveva vendere e restituire loro finché poteva il denaro che avevano investito. Lui aveva opposto resistenza alla loro proposta, sperando ogni anno di avere risultati migliori, ma poi, talento nobile e già da lucente, avevano cominciato a immischiarvisi e invece di libri di testo stampavano e distribuivano opuscoli rivoluzionari che minacciavano di far ricadere su di loro la collera dei signori della guerra o della cricca di Pechino o degli stranieri, a meno che non si pagassero bustarelle sostanziose. Ah, scosse la testa. Era ingiusto e lo sapeva. La casa editrice non aveva mai ricavato dei profitti e mai ne avrebbe avuti. All'improvviso la stanza gli sembrò soffocante. Chi aveva chiuso le finestre? C'era stato un temporale? Si alzò e le aprì, restando un momento a osservare la luna nascondersi dietro le nuvole, poi riapparire. Com'è la morte? Aveva chiesto il bambino. Lui stesso se lo chiedeva ora, scuotendo la testa al pensiero della piccola scimmia. Era impulsivo come luna di primavera. Anche i suoi due figli erano stati così alla sua età. Non sapeva. Le loro lettere giungevano regolarmente una volta al mese. Vista gloriosa studiava matematica a Harvard. Vista brillante era partito l'anno scorso per seguire un corso di fisica e geologia al MIT. Sapevano dirgli di cosa era fatta una montagna, ma non avevano sentimenti per essa. Com'erano diverse le loro lettere da quelle che lui aveva scritto al venerabile. Le loro erano programmi. Le sue frammenti di oziosi pensieri. Chissà se sarebbe vissuto abbastanza da poter accogliere i suoi figli al loro ritorno. Sarebbe stata l'ultima occasione per conoscerli. Poco a poco l'idea di tornare a Sciucciao si radicò finché divenne l'unica alternativa. Avrebbe chiesto a 20 d'agosto di provvedere alla vendita della casa e delle pubblicazioni della Nuova Cina, o forse l'orfano avrebbe apprezzato il ruolo di editore. Così come sembrava apprezzare ogni altra cosa, come se la vita fosse un divertimento, niente di più. Sicuramente la casa editrice avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivenza nelle sue mani, se non avesse convinto qualcun altro ad acquistarla per una somma spropositata. Talento coraggioso sorrise, e pensare che un tempo si era preoccupato per 20 d'agosto, temendo che diventasse un topo di campagna rintanato nel granaio dei Chang. Accese la luce e rimase seduto un po', studiando il cipresso inciso sul coperchio della scatola degli scacchi sul comodino, ricordando il fantasma di suo padre al cancello. 36. Il quadro. Un anno dopo l'altro, le dimostrazioni popolari continuavano diffondendosi da una città all'altra. I porti furono paralizzati. Alle esortazioni degli agitatori, o presunti tali, i culi abbandonavano i loro gioghi. Un anno dopo l'altro i signori della guerra saccheggiavano e combattevano e i trattati continuavano ad essere iniqui. Decine di milioni perirono, vittime delle inondazioni e della siccità. Contro tali calamità il nemico di un nemico divenne amico. Sun Yat-sen, un cristiano educato in Occidente, rivolse le sue speranze alla Russia e il Comintern ordinò ai comunisti cinesi di assoggettarsi al Kuomintang di Sun. Insieme, comunisti e Kuomintang costruirono un esercito per estirpare i traditori all'interno e resistere all'aggressione dall'esterno. Nell'estate dell'anno della Tigre, 1926, dopo la morte di Sun, Chiang Kai-shek lanciò a Canton la marcia verso il nord che doveva unificare la Cina. Ma mentre un territorio dopo l'altro veniva conquistato, il fronte unito si spaccò e ciascuna fazione si domandava come potesse fidarsi a condividere il potere con un nemico, una volta terminate le battaglie. Il problema di decidere chi fosse il nemico e chi l'amico era sentito soprattutto nel Hunan, dove Mao Zedong, membro supplemente del comitato esecutivo centrale del Kuomintang e capo del Dipartimento Contadino del Partito Comunista Cinese, tenne questa relazione nella primavera dell'anno del Coniglio 1927. Un uomo che possiede 50 mo di terra deve essere classificato come canaglia. E un uomo che indossa una veste lunga deve essere denunciato come malvagio possidente. Un cappello alto di carta con sopra scritto tiranno locale tal dei tali o malvagio possidente verrà messo in testa alla persona che deve essere punita. Poi essa verrà portata al guinzaglio per tutto il villaggio. L'esecuzione di ogni singolo scuote l'intero paese fino alle fondamenta ed è infatti uno strumento molto efficace per eliminare le strutture feudali. In breve tempo centinaia di milioni di contadini si leveranno come un uragano o una tempesta, una forza di rapidità e violenza così straordinarie che nessun potere, per quanto grande, potrà reprimere. Manderanno nella fossa tutti gli imperialisti, i guerrafondai, i funzionari corrotti, i tiranni locali e i malvagi possidenti. Tutti i partiti rivoluzionari e tutti i compagni rivoluzionari saranno giudicati da loro. Storia cinese. La testa china per proteggersi dal vento già da lucente avanzava fatica su per il ripido, stretto sentiero di montagna, attraverso foreste di abeti folti come pelliccia, verso il villaggio dei Boschi Beati. I suoi piedi erano pesanti come pietre e ogni passo le richiedeva un grande sforzo. Altri 10 li da percorrere e soltanto il pensiero di una tazza di acquosa brodaglia di riso per sostenerla. Non aveva mai dubitato di non farcela. La ragazza che era stata così poco fiera della sua bellezza era diventata una donna molto fiduciosa nelle sue forze. Un mese dopo che spirito risoluto l'aveva portata in quella regione, l'aveva soprannominata Giada delle Montagne e quel nome le aveva fatto piacere più di tutti i premi che aveva conquistato quando si chiamava Margaret. Nei 6 anni trascorsi da allora aveva imparato rapidamente l'aspro dialetto del Hunan e si era affermata come organizzatrice itinerante degli insegnanti nei settori della provincia controllati dall'Associazione dei Contadini. Aveva anche imparato a vivere sempre nell'incertezza e nel pericolo, poiché il lavoro di spirito risoluto consisteva nell'estorcere dai proprietari terrieri e dai mercanti della zona periferica denaro per la causa e poteva essere tradito o catturato in qualsiasi momento. Sola aveva messo al mondo il loro figlio, nuovo destino, e l'aveva portato sulle spalle finché aveva raggiunto i 2 anni. Solo quando il piccolo aveva contratto una febbre che non calava, lei era tornata momentaneamente a Shanghai per lasciarlo a luna di primavera. Quando l'aveva vista, sua madre non l'aveva riconosciuta. A una biforcazione del sentiero si fermò per riprendere fiato, pensando, come spesso le accadeva, a Miss Clayton. La gente della scuola le aveva detto soltanto che la missionaria era morta nel Hunan, come se fosse stato un puntino sulla carta geografica, un piccolo villaggio. Avrebbe potuto approfondire la questione, ma la notizia era giunta proprio quando lei e Spirito Risoluto stavano per lasciare Shanghai e il tempo era così limitato. Ora le sembrava preferibile pensare che la sua insegnante fosse sepolta al di là della prossima altura, nelle vicinanze. Erano le prime ore del pomeriggio quando raggiunse il Tempio degli Spiriti Elevati, così in alto su un precipizio che quando era nuvoloso scompariva alla vista dei contadini che lavoravano giù nei campi. Da lontano appariva celestiale, dentro era squallido e umido. Ma la dozzina di donne che già vi si trovavano, imbottite come spaventapasseri di carta e paglia per proteggersi dal freddo, evidentemente non se ne accorgevano. Tenendo d'occhio i loro marmocchi, intrecciavano canapa, o ricavavano suole di scarpa da pezzi di stoffa. Alcune allattavano neonati. Tutte conversavano allegramente. In inverno questo era l'unico posto dove ci si potesse radunare a chiacchierare in tante. Laile! Laile! Mani premurose l'aiutarono a sollevare il suo zaino, spingendola verso l'unica sedia. Un elaborato trono di palissandro confiscato dalla casa del proprietario terriero e messo accanto al fuoco per lei. Sorella Ong buttò un altro ramoscello nella misera fiamma e tutti osservarono in silenzio il quadro che si tirava via i guanti per scaldarsi le mani. Il loro fiato si alzava in forma di vapore su per la breccia nel tetto del tempio. Dopo un po', la vecchia goccia di rugiada, che era la leader del gruppo, increspò le labbra e disse con voce chiocciante: «Che viaggio terribile con questo tempo! È solo per insegnare a noi teste dure! È da tanto tempo che siamo ignoranti! Un mese di più non farebbe nessuna differenza! Il padrone è andato a Shanghai, le terre sono state divise, i piedi delle giovani sono liberi, tutto va bene!» «Non per me!» urlò un donnone arcigno in fondo. Goccia di rugiada sputò, disgustata. «Ah! Non darle retta!» Ma quella si fece strada fra le altre per esprimere, in presenza del quadro, le sue lamentele nei confronti di Goccia di Rugiada. «Perché le parti non sono giuste? Il mio mu di roccia non è la stessa cosa del tuo mu di buona terra!» «Vecchia, ma stai diventando hu li hu tu!» l'accusò Goccia di Rugiada, guardando Giada Lucente come per richiedere l'opinione di un'esperta. Lei finse di essere tutta assorta a scaldarsi le mani. Meglio che se la sbrigassero fra di loro, non voleva imporre le sue opinioni, almeno per questa faccenda. La stessa lite si era ripetuta ogni mese, quando avevano diviso le terre, e prima di quella un'altra ancora, una serie interminabile. «Non sono abbastanza huli!» Ma agitò il pugno furibonda. «Non sono così stupida ad accontentarmi di un mo di roccia quando tu hai un mo di buona terra!» Le altre intervennero. «Basta con le liti, pensiamo alla lezione.» «È lo stesso, sempre lo stesso. Fai fare una brutta figura al nostro villaggio.» Le voci delle donne salivano sempre più di tono finché Goccia di Rugiada batté le mani per chiedere il silenzio. Quando furono tutte tranquille, ripeté: «È lo stesso. Se è lo stesso, perché non facciamo un cambio? Il tuo mu di terra per il mio mu di roccia, goccia di escremento.» Magnanima, Goccia di Rugiada ignorò l'insulto e si eresse assumendo un'aria molto dignitosa. «Non essere così avida. Che cosa avevi prima che si formasse l'associazione? Un mo' di gas?» Fra le risate il donnone se ne andò a grandi passi, sconfitto. Giada Lucente aprì la bocca per richiamarla, poi resistette all'impulso. «Meglio cominciare la lezione», si disse. «Fra non molto, ma sarebbe tornata.» Quando si alzò, le donne si calmarono. Pazientemente riprese l'ultimo mese di lavoro, la scrittura del loro nome, i caratteri per madre, padre, sorella, fratello. Non c'erano né penne, né carta, né libri. Bisognava scrivere con l'indice ogni parola nella polvere e cancellarla con la mano. Una volta che i vecchi caratteri furono di nuovo memorizzati, Giada Lucente tracciò quelli nuovi: Cina, riso, mulo, terra, libertà. Feudalesimo. Come sempre alcune si scoraggiavano e si mettevano in un angolo per riprendere a chiacchierare. Soltanto le più decise memorizzavano tutte le parole e di queste la metà le avrebbe scordate prima della prossima visita. Doveva ricordare che basta un fiammifero per scatenare l'incendio di una prateria. Doveva ricordare che era solo l'inizio.